Euroreportage. Più Europa in azienda, con Enterprise Europe Network, di Alessandra Schepisi. Siamo in 5, prevalentemente ingegneri, il taglio dell'azienda è la ricerca e sviluppo. Siamo una piccola realtà, siamo in 5. La nostra società HSD Europe è una società che opera nel settore biomedicale. La nostra azienda nasce circa 20 anni fa sul territorio piemontese, specializzata nelle costruzioni in biodilizia. Salva è una giovane startup innovativa, lavora nel campo delle green technology. L'azienda agricola Dora nasce 2 anni fa grazie ad un progetto finanziato dal programma di sviluppo rurale con l'obiettivo di gestire un uliveto e di produrre un olio extravergine di qualità. Dall'olio d'oliva alla biodilizia, dalle tecnologie verdi alla ricerca applicata alla domotica e all'automazione industriale, un viaggio tra piccole e in alcuni casi micro imprese italiane, tra quelle che hanno una cosa in comune, la voglia di innovare e di internazionalizzarsi, innovare per poi connettersi con il resto del mondo e quindi crescere. Ma voler innovare, avere un'idea, a volte si sa, non basta e c'è bisogno di una bussola per orientarsi tra le varie opportunità. È per questo che la seconda cosa in comune tra queste aziende si chiama Enterprise Europe Network, la rete della Commissione Europea che fornisce servizi gratuiti alle imprese per favorire innovazione e internazionalizzazione. Opera in oltre 50 paesi attraverso 600 organizzazioni, di cui 50 in Italia, 307 gli accordi conclusi nel 2012 tra operatori italiani e stranieri grazie all'assistenza di questa rete. Allora, per capirne di più, andiamo a Villa Rosa, in provincia di Enna. Partiamo dalla Sicilia dunque e da Dora, così si chiama una piccola azienda familiare che produce olio d'oliva, perché anche in un settore tradizionale si può innovare. Vincenza Ferrara è la responsabile. L'azienda agricola Dora nasce con l'obiettivo di gestire un uliveto che è di mia proprietà, sono 400 alberi, alcuni anche secolari, e di produrre un olio extravergine di qualità. E l'azienda mira anche a fare multifunzionalità, cioè applicazioni agricole anche nel settore dell'educazione, della ricerca e sviluppo, dell'innovazione. E lei è una, insomma, piuttosto convinta delle opportunità offerte dall'Unione Europea, si è rivolta spesso ai servizi della rete? Sì, perché Dora, essendo ancora proprio piccolina, ecco, appena nata, avendo l'esigenza di commercializzare i propri prodotti e di fare internazionalizzazione e volendo anche fare ricerca e sviluppo, mi sono rivolta all'Enterprise Europe Network proprio per cercare, avere supporto nel trovare dei partner strategici. Tra l'altro le devo dire che proprio io collaboro in Svezia con un'azienda che si occupa di cibo funzionale, cibo con un apporto maggiore di proteine, e con loro vogliamo sviluppare dei nuovi prodotti e le posso garantire che anche l'Unione Europea, ecco, ci sono molti finanziamenti nell'ambito dello sviluppo proprio della ricerca di nuovi e di nuovi cibi funzionali, perché le intolleranze alimentari sembrano essere il futuro. Quindi in particolare di quali servizi ha usufruito della rete? In cosa la rete l'ha aiutata? Il loro supporto è stato fondamentale, perché ad esempio nel caso di aziende lontane dal contesto europeo, come è un'azienda coreana con cui alla fine abbiamo stipulato un accordo di partenariato, e l'intervento della rete europea dell'Enterprise Europe Network è fondamentale, perché le differenze culturali sono enormi, quindi loro svolgono una funzione di mediatore culturale che è necessaria. Un'ultima curiosità: come mai si chiama Dora la sua azienda? Avendo un background culturale nel settore no profit, quindi l'idea del dono mi piace, ecco. Io non voglio essere un imprenditore avido, voglio essere un imprenditore un po' anche no profit, ecco. Quindi l'idea di Dora Dono mi piaceva e ho detto che sia Dora. E dalla Sicilia a Torino con Daniele Cudia, amministratore delegato di Nova Case, azienda piemontese che è riuscita ad aprire in mezza giornata una sede a Londra grazie all'assistenza di Enterprise Europe Network. La nostra azienda nasce circa 20 anni fa sul territorio piemontese, specializzata nelle costruzioni in biodilizia, quindi nella realizzazione di edifici ad alto risparmio energetico. Quindi realizziamo edifici che sono già in linea con quelle future normative utili alla realizzazione di edifici civili. Quindi nasciamo con questa missione parecchi anni fa proprio per prepararci a quello che sarà ed è già attualmente il nuovo mercato delle costruzioni. Di qui la voglia evidentemente di internazionalizzarvi, di guardare oltre confine, no? Sì, ci siamo accorti che la nostra tecnologia era estremamente avanzata per il Nord Europa, in particolare per i paesi anglosassoni, quindi guardavamo questo paese con molto, molto interesse. E avevamo delle oggettive difficoltà a entrare sul mercato, a proporci sul mercato per quello che era la non conoscenza delle norme e di tutte quelle che erano le necessità operative per costituire un'azienda. Da lì, attraverso la Camera di Commercio di Torino e quindi agli Enterprise Europe Network, ho avuto il pieno supporto per proporci su questo mercato. Ci hanno seguito passo passo, devo dire con molta pazienza ci hanno ascoltato per capire cosa stavamo facendo, e questo al fine di permetterci di presentarci i riferimenti e per darci e fornirci le informazioni più idonee sul mercato. Insomma, alla fine qual è stato il risultato? La nuova casa è stata invitata a Expo Build 2013 come partner specializzato in edilizia, da lì abbiamo aperto tutta una serie di contatti tramite gli appuntamenti B2B che la stessa rete aveva creato, e al termine della fiera, nel giro di mezza giornata, abbiamo costituito la nuova società inglese. E da Torino ci spostiamo invece a Roma con Ciro Formisano, amministratore delegato di System Design, una startup innovativa, 5 dipendenti e grazie alla rete riuscita ad arrivare in Russia e in Israele. Sì, brevemente, System Design è una piccola realtà, una startup innovativa che si occupa di ricerca e sviluppo nell'ambito delle energie rinnovabili, della sensoristica innovativa, si occupa di unità sensoriali intelligenti. Un sistema olfattivo artificiale serve per diverse applicazioni che vanno dal monitoraggio della qualità dei cibi a monitoraggio della qualità dell'aria. In particolare, un'applicazione relativa al monitoraggio della qualità dell'aria ha visto un nostro prodotto essere utilizzato dalla NASA durante l'ultima missione dello Space Shuttle per monitorare la qualità dell'aria all'interno della stazione spaziale ISS. Quindi una piccola azienda, una startup innovativa che vuole innovarsi, vuole internazionalizzarsi. E anche voi perché vi siete rivolti alla rete e quali risultati avete ottenuto? Toyen rappresenta la nostra visione verso l'internazionalizzazione, ovvero non avendo noi direttamente possibilità di investire in iniziative di marketing o comunque in azioni dedicate all'internazionalizzazione, otteniamo supporto da Enne attraverso la struttura di Big Lazio e in qualche modo ci forniscono supporto per la ricerca partner, tant'è vero che grazie a una delle iniziative Enne siamo riusciti a stilare un accordo di collaborazione con una società israeliana per la realizzazione di sensori innovativi per il monitoraggio ambientale dedicati all'agricoltura di precisione e all'intensive farming. E poi avete anche attivato una collaborazione con un partner russo, no? Mi sembra. Sì, anche sì. Abbiamo stretto una partnership strategica con un partner russo col quale stiamo lavorando su diversi progetti, in particolare sulla possibilità di partecipare a un bando europeo, a un progetto finanziato Horizon 2020 insieme per quanto riguarda le energie rinnovabili. E dunque questa una piccola panoramica delle opportunità offerte dalla rete Enterprise Europe Network, e nella nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 è rafforzato il ruolo chiave assegnato a questa rete proprio per sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese. Allora sentiamo quale ruolo gioca la rete in questo settore da Antonella Marras di Mondo Impresa, coordinatrice del consorzio Bridge Economy, su uno dei 5 consorzi in cui sono organizzati 50 membri della rete nel nostro paese. Questa rete con la prossima programmazione è inserita nel programma COSME, che sta per competitività per le piccole e medie imprese, e quindi continuerà a fornire informazioni e prima assistenza, ed inoltre potrà svolgere un ruolo importante per favorire l'utilizzo da parte delle piccole e medie imprese di questo nuovo strumento nell'ambito di Horizon 2020, denominato strumento per le piccole e medie imprese, che è uno strumento che mira a sostenere la piccola e media impresa nella sua innovazione o nella prototipazione di una invenzione per poterla portare sul mercato. Cosa che io trovo molto interessante è che questa rete offre questi servizi sia alla piccola microimpresa tradizionale, quindi manifattura dei settori diciamo maturi, quindi dall'agroalimentare di nicchia, bio per esempio, sia a imprese che invece hanno tecnologie d'eccellenza. Offre servizi a tutti. Questo io lo trovo interessante perché ho visto dei casi di successo molto piccoli che però vanno dalla famosa liquirizia della Calabria piuttosto che dai limoni della Sicilia o dall'olio di limone siciliano a tecnologie di punta del nord. E dunque finisce qua il nostro viaggio tra le piccole grandi eccellenze italiane. Vi diamo il riferimento del servizio della Commissione Europea che è EEN-italia.eu. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.